as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve, siamo di nuovo qui a Il Pane delle Rose. Oggi seconda puntata dedicata all'intervista a Stefan Buchin. Chi ha seguito la prima puntata chiaramente sa di cosa stiamo parlando. Per chi non avesse seguito la prima puntata, ricordiamo che Stefan Buchin è un professore universitario dell'Università di Parigi, è un marxista, un sociologo, un compagno, uno che gira il mondo parlando con i lavoratori, dove c'è la lotta di classe, c'è lui. Scrive un sacco di libri e sta scrivendo un libro per quanto riguarda quello che accadde nel marzo 2020 durante il primo periodo della pandemia, quando in Italia tantissimi lavoratori scioperarono, da qui anche noi delegati della Bonfiglioli siamo stati tra quelli che hanno scioperato di più ad oltranza, e lui ci ha, insomma, è venuto qua in Italia per intervistarci e chiaramente io ne ho approfittato per poter intervistare lui e chiedergli tante cose che volevo da tanto chiedergli, visto che sta scrivendo un sacco di cose sulla pandemia, sulla questione del Green Pass, sulla questione dei movimenti che ci sono, anche Novax in Francia. Ma soprattutto quello che gli volevamo chiedere è, secondo lui, quello che accadrà, visto la crisi, visto quello che sta succedendo, c'è anche il problema della guerra, c'è la lotta di classe che comunque sia è viva, è vegeta, e da lui in questa puntata proprio sentiremo quello che cosa ne pensa di questo, di quello che accadrà, delle possibilità di riconquista dei diritti che ci sono dei lavoratori, di quello che potrebbe accadere nei prossimi periodi. Ci ascolteremo un pezzo storico della tradizione musicale rivoluzionaria, poi sentiremo l'intervista a Stefan e poi ci sentiamo per le conclusioni. Amis, si tu tombes. molti scrittori come te, molti storici stanno osservando quello che sta accadendo, la lotta di classe. Secondo molti scrittori e storici accademici, la lotta di classe, la classe lavoratrice la sta perdendo, i padroni la stanno vincendo. Sono anni ormai, soprattutto dopo gli anni 80, dalla Thatcher in poi, che questa cosa è sotto l'occhio di tutti. E noi volevamo chiederti, tu che sei comunque un professore universitario, che la studi la lotta di classe, studi le cose che accadono tutti i giorni, ma comunque hai anche un punto di vista sul piano generale. Secondo te cosa può accadere nei prossimi anni? C'è la possibilità di un ritorno della lotta di classe in cui noi possiamo sviluppare una forza tale da rinvertire i rapporti di forza? Vedi questo in Europa, in alcuni paesi, in Italia, in Spagna, in Francia, e volevamo da te insomma un segnale di speranza, come il tuo punto di vista per quanto riguarda la lotta di classe in Italia e le speranze che abbiamo noi come lavoratori di riconquistare quello che abbiamo perso in questi anni, negli ultimi ormai 30 anni. Rivolta e speranza, c'è ragione di sperare? Penso di sì. La pandemia ha provocato una ingiezione massiva di liquidità di 10 trilioni di dollari, quasi il doppio di quanto è stato ingettato in 2008. Questa creazione monetaria ha finanziato l'economia, ha fatto che l'economia con il lockdown può continuare senza fallimenti, eccetera. La ripresa economica e la presenza di una parte di questa liquidità dopo l'arresto improvviso del 2020 sta facendo salire i prezzi, le bollette. L'inflazione è passata del 2 a 3, poi a 5%, 7% da qualche paese, per esempio gli Stati Uniti. A causa di questo ognuno perde su un base annuale facilmente 10% del suo potere d'acquisto. Per fermare questa inflazione le banche centrali non hanno 300 mila di soluzioni. Devono aumentare i tassi di interesse, cioè aumentare il prezzo del denaro. Ma in un mondo in cui le aziende, gli stati e le famiglie sono tutti indebitati, questo porterà anche una cascata di fallimenti, le aziende zombie, una maggiore disoccupazione, la chiusura di aziende, un calo delle entrate fiscali, in breve una nuova recessione molto molto profonda. Nel 2008 il sistema finanziario è stato salvato dai governi che hanno imposto politiche di austerità e di privatizzazione per pagare i debiti. L'economia mondiale non solo galleggia su un oceano di debiti, ma anche è piena di capitale fittizio e di bolle speculative. Un nuovo crollo finanziario è destinato a verificarsi. Può arrivare, arrivare domani o magari in 6 mesi o un anno. Per evitarlo abbiamo bisogno di una crescita economica sostenuta. Ma sostenere questa crescita economica permette solo di guadagnare tempo, non di risolvere le contraddizioni che sono all'opera in questo sistema capitalista. Mi ricordo di aver letto un documento del Fondo Monetario che confrontava l'impatto di una pandemia sulla crescita economica a lungo termine con l'impatto di una guerra. Potete indovinare la risposta. Una guerra ha un impatto meno negativo sulla crescita, semplicemente perché bisogna di ricostruire molte cose che sono state distrutte, mentre una pandemia arresta il ciclo di accumulazione del capitale e basta. Dopo l'infrastruttura è ancora lì. Quindi penso che la crisi sistemica del capitalismo si porti anche verso la guerra regionale o ancora più grandi, con tutti i rischi che una guerra mondiale può comportare a questo momento, per esempio. Ma la situazione di crisi sistemica porta anche le insurrezioni popolari, il gilet gialli Le Gilets jaunes erano prima di tutto una rivolta plebea di categoria che si stanno proletarizzando, impoverendo e che non accettano le tasse e l'alto costo della vita. Durante i primi due mesi del movimento, più di 3 francesi su 5 hanno sostenuto la mobilizzazione. I sondaggi mostrano che circa 10-15% della popolazione ha partecipato direttamente o indirettamente a questa mobilizzazione. I metodi di azione erano molto efficaci, bloccando le rotatorie. Si sblocca il flusso di merci, cosa che può fare, tutte le cose che può fare un sciopero generale. Poi le forze di sinistra e sindacali non hanno svolto il loro ruolo. Gli anarchici erano presenti, ma questa corrente ha difeso che non era necessario di fare richieste, domande, perché altrimenti avrebbe innescato trattativi e quindi tradimenti, un po' come Occupy Wall Street. Ma non ci si può continuare a manifestare ogni sabato per sempre. Allora il movimento si è finito così. Ci sono negli segni ovunque, molti segni adesso, di un aumento della mobilizzazione, di una rinnovata combattività. Negli Stati Uniti c'è scioperi, molto piccoli scioperi, ma anche i lavoratori che si stanno sindacalizzando a Starbucks, a Amazon e che fanno richieste. Ci sono anche milioni di lavoratori che hanno lasciato il loro datore di lavoro. Da aprile 2021 più del 20% del dipendenti della popolazione attiva ha detto basta così, me ne vado. Quelli che rimangono non è perché sono ben pagati o perché gli piace il loro lavoro, no, la maggior parte di quelli che rimangono non vogliono cambiare datore di lavoro perché loro figli vanno a scuola di là, ci sono i loro genitori, la loro attività sportiva o associazione. Ma se si sviluppa il telelavoro, il smart working e il remote working, potranno certamente cambiare datore di lavoro mantenendo il loro inserimento su un territorio. Questo rafforza la posizione dei lavoratori e dei sindacati. Allora, una cosa sulla lotta di classe, penso importante di dire qualche cosa su questo tema. La lotta di classe si gioca su entrambi i fronti, da due parti. Come disse Warren Buffett, noi abbiamo vinto. Solo che la lotta di classe è come una partita di calcio che non finisce mai. Dobbiamo resistere agli attacchi dell'altra parte, sfruttamento eccessivo, flessibilità a tutti i costi, smantellamento degli statuti e della protezione sociale o privatizzazione di questa protezione sociale. Per condurre la nostra lotta di classe è già un buon senso di cercare l'unità, di unificare questa classe affinché torni ad essere una classe per se stessa. Questo significa rimettere il movimento nel movimento sindacale, di rimettere il movimento en mouvement, che abbiamo bisogno anche di misure di emergenza chiare e realistiche. Non possiamo invertire l'equilibrio globale del potere tutto in una volta, ma se ci sono vittorie parziali o piccole qua e là, e se la fiducia nella capacità di combattere insieme vince sulla mente delle persone, allora possiamo avere movimenti di protesta molto ampi. Non dobbiamo perdere queste riunioni, non fare come i sindacati francesi all'inizio del Gilet Gialli. Essendo troppo istituzionalizzato, il sindacato diventa un colosso con i piedi d'argilla o una tigre di carta. Non fare nulla riguardo la povertà lavorativa, a lavoratori poveri, e non rispondere all'inflazione nel modo giusto, attraverso la scala salariale o la scala mobile, è ancora una sorta di ammissione di debolezza o una sorta di diserzione. La scala mobile esiste ancora in Belgio, regolarmente attaccata dalla destra e dal datore di lavoro, e difesa dai sindacati, anche perché la base dei sindacati, perché i lavoratori hanno la coscienza di classe che senza questa scala mobile, questo cambiamento automatico del livello del stipendi, è la strada reale, la strada aperta verso il dumping sociale e un ritorno del Novecento. Il Belgio, all'epoca, è il paradiso in terra dei capitalisti, come diceva Marx. Salari al di sotto del livello di sussistenza, giornate lavorative di 15-16 ore, settimane di 6 giorni, eccetera. Quindi, per riassumere, la lotta di classe non si ferma mai e ora, adesso, di scendere in campo e che il campo di lavoro risponda adeguatamente per difendere i suoi interessi, le sue condizioni di vita. Se questo succede in un paese di Europa, avrà immediatamente un eco negli altri paesi. Ma questa lotta di classe si svolgerà sulle questioni urgenti e immediate, ma ha anche il compito di affrontare i problemi sistemici che stanno per aumentare: crisi ecologica, biodiversità, transizione energetica, accessibilità alle cure sanitarie. Sappiamo che il lungo Covid sarà un problema importante per centinaia di milioni di persone in Europa, una modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Sia le lotte difensive che quelle offensive sollevano la questione delle leve del potere e dell'esercizio del potere, e quindi anche di un strumento politico. O una frazione dei partiti di sinistra esistenti sarà rigenerata o ne appariranno di nuovo. Ma è certo che i militanti marxisti, comunisti e internazionalisti hanno compiti immensi e sono, secondo me, gli unici che possono assumere questo ruolo storico di porre fine al capitalismo. Allora, per finire, vorrei salutare gli ascoltatori, ringraziare gli amici e compagni delle giornate di marzo che mi hanno accolto e che mi hanno permesso di incontrare belle persone piene di energia e di fiducia che le cose cambieranno. Tornerò in Italia alla fine di marzo per il grande evento di Insorgiamoci. Ciao ciao, hasta la victoria. Ti salutiamo Stefan, siamo veramente contenti di averti intervistato. Spero che il nostro contributo in realtà nell'intervista che tu ci hai fatto ti sia stato utile e speriamo di vederci presto, chissà, una grande manifestazione europea di lavoratori di tutta Europa contro questi stati capitalisti che ci stanno distruggendo la vita e distruggendo l'ambiente. Un saluto, grazie Stefan. Falling, we are falling now. Words written down, they are falling now. With the lies, they will hurt you. Hold on. Human kindness to serve you. Hold on. Let's start a revolution. Solution written on your hands, and the lies, they won't hurt you no more. Human kindness to serve you no more. Let's start a revolution. On fire, but it's beautiful. abbiamo ascoltato la fine dell'intervista di Stefan, chiaramente ha detto cose molto importanti, ha affrontato anche quello che accade in questi ultimi mesi in Europa, in Francia, in Italia, in tutti i paesi europei, ci ha ricordato il fatto che in questo momento c'è una condizione davvero drammatica che però potrebbe portare i lavoratori finalmente a scendere in piazza e a rivendicare un giusto salario, e anche questo potrebbe essere rivoluzionario, perché oggi anche delle cose che nel passato erano rivendicazioni riformiste potrebbero, in questo momento di crisi del liberismo, della situazione drammatica in cui molto probabilmente ci troveremo tra un po' di tempo, chiaramente questo potrebbe essere molto rivoluzionario e potrebbe aprirci degli scenari veramente interessanti e importanti. Io spero che Stefano abbia ragione, io sono molto ottimista come lui, vedremo cosa accadrà. Io vi saluto, vi invito sempre ad ascoltare il Panele Rose il martedì, la trasmissione dei lavoratori metalmeccanici, ma non solo. Penso che questa intervista a Stefano Buchin sia stata molto utile per me, sicuramente lo è stato, spero che vi sia piaciuta anche a voi. Presto ci torneremo a occupare di lotte, di mobilitazioni, ricordando a tutti quanti che il 26 marzo è una data importante per i lavoratori italiani, perché speriamo di insorgere e che ci sia una grande manifestazione. Ci sentiamo presto, sempre sul Panele Rose, su Radio Città Fucico. A presto compagni. Oh.